in primo piano. Martedì 14 settembre, l'apertura economica del Sole 24 Ore dedicata al giorno dopo a Basilea 3. L'approvazione tecnica delle nuove regole, i nuovi standard patrimoniali per le banche. Basilea 3 passa all'esame delle borse, questo è il titolo del Sole 24 Ore, con Trichet che dice eliminata l'incertezza. Dopodiché sono due i temi che conquistano le prime pagine dei giornali generalisti, vale a dire la vicenda avvenuta al largo della Libia e la politica. Mitragliati in mare dai libici, questa è l'apertura del Corriere della Sera. Anche il Fatto Quotidiano: Gheddafi ci spara con le nostre navi. Anche la Stampa: finanzieri sulla nave libica che spara a un peschereccio. Il Messaggero: Libia, spari contro gli italiani. Anche per l'Unità c'è una foto di Gheddafi e Berlusconi, fuoco amico. Il Secolo, XIX, il fuoco amico di Gheddafi. Mentre per quel che riguarda la politica, Repubblica, il mercato dei parlamentari, in 20 passano con Berlusconi, è il tema che abbiamo affrontato ieri mattina. Mentre Libero e Il Giornale continuano nella campagna della Casa Monte Carlo e quindi degli attacchi al presidente della Camera Fini. Libero: trovato Tulliani a casa, sulle tracce del cognato di Fini. Mentre Il Giornale: il notaio di Monte Carlo sente puzza di bruciato. Vedremo di che si tratta, ma io partirei proprio dalla vicenda Gheddafi. Anche Il Riformista titola con la foto di Gheddafi: adesso ci spara addosso. Che cosa è successo? Che ieri un peschereccio italiano è stato preso a colpi di mitragliatrice da una nave. Solo che questa è una delle sei navi che l'Italia ha dato alla Libia per controllare l'immigrazione clandestina. E a bordo di questa nave, dalla quale sono partiti i colpi, c'erano anche dei finanzieri italiani. Quindi una vicenda intricatissima. Fuoco sui pescatori e c'erano anche dei finanzieri italiani sulla nave che ha fatto fuoco contro il nostro peschereccio. Da qui molti dicono: ci spara addosso con le nostre navi. Non gli è bastato trasformare una caserma dei carabinieri in un bivacco di berberi, scrive Il Riformista in prima pagina. Il colonnello Gheddafi, ora anche trasformato una motovedetta italiana con a bordo militari italiani, in una mitragliera che spara su un peschereccio italiano. Da farsa che era, l'amicizia italo-libica sta seriamente rischiando di diventare tragedia. E così accade nelle relazioni internazionali quando ci si genuflette e si perde la propria dignità di grande paese. Il bandito di turno si prende la mano con tutto il braccio, con l'aggiunta della beffa, perché usare le motovedette che noi abbiamo dato a Tripoli al fine di fermare i clandestini per fermare invece i nostri pescatori è la più crudele e offensiva delle beffe. E anche il Corriere, a pagina 3, c'è il capitano del peschereccio Gaspare Marrone che parla, comandante dell'Ariete, questo è il nome del peschereccio. Non mi sono fermato all'alt dei libici perché so cosa vuol dire. Sarei andato incontro a una sicura prigionia in Libia, so cosa vuol dire, e non è certo come in Italia, ma stavamo solo transitando, ci hanno sparato per diversi minuti, ci hanno inseguito, ci hanno intimato di fermare i motori, hanno anche colpito le bombole del gas, poteva essere una strage, ma fortunatamente l'abbiamo scampata. E tra l'altro sulla Stampa, a pagina 2, Guido Ruotolo intervista l'ambasciatore libico in Italia, Fel Gaddur, che esordisce così: siamo profondamente dispiaciuti per quello che è accaduto. Abbiamo istituito una commissione d'inchiesta nella quale parteciperanno anche rappresentanti italiani, che peraltro erano a bordo, ripeto, dei finanzieri. Ripeto, quello che è successo non dovrà mai più ripetersi e mi auguro che molto si raggiunga ora con l'intesa sulla pesca tra i nostri due governi, perché l'accusa è questa: hanno sparato, secondo la prima ricostruzione, perché il peschereccio italiano avrebbe violato le acque interne, il limite delle acque libiche. Anche Il Giornale: i libici ci sparano addosso con le nostre navi. Insomma, trovate molto sviluppato questo tema che rilancia le polemiche, statene sicuri, sull'alleanza italo-libica, mentre trovate anche molto del nostro sondaggio. Lo anticipo, la vicenda appunto di Matteo Sereni, portiere del Brescia, dà il là ad un articolo, per esempio, di Stefano Zecchi in prima pagina del Giornale, molto duro: poveri papà, ormai li hanno rottamati. Sereni, il portiere del Brescia, spera che Simone e Giorgio abbiano visto la bella partita. perché a lui da tanto tempo è preclusa la possibilità di incontrare i suoi figli, perché la risposta la conoscono bene tanti papà separati che non riescono a vedere più i propri figli. Le ragioni sono tutte riconducibili a un unico motivo: la madre, nelle cause di separazione e di divorzio, è la figura tutelata a tutto danno del padre. Nascono da un pregiudizio questi casi estremi. Il padre, scrive Stefano Zecchi, non ha parità di diritti rispetto alla madre. La madre è la vera educatrice, il padre è una figura subalterna. E così, quando il giudice si trova ad assegnare a uno dei genitori la custodia dei figli, in oltre il 95% dei casi il giudice li assegna alla madre. Se i genitori vanno d'accordo, il padre riesce a vedere i propri figli due volte al mese. Se invece avvocati e giudici non riescono ad appianare i conflitti coniugali, sul fronte di guerra la madre manda i figli e lei si approvvigiona delle armi più diverse per negare all'ex marito la presenza dei figli. Certo, è una visione molto, molto dura quella di Stefano Zecchi. Oggi anche la Gazzetta dello Sport ci ritorna nel consueto punto che Giorgio Dell'Arti fa a pagina, in questo caso a pagina 43, su Il Fatto del Giorno. È proprio questo: la legge non punisce troppo i padri separati? Questo ci si chiede, con la storia di Matteo Sereni sullo sfondo. E anche il tema, ripeto, nel nostro sondaggio vi chiediamo se secondo voi nell'affido dei figli in caso di separazione ci sia parità di trattamento da parte della legge tra padri e madri. Votate su radio24.it. E allora la politica, alle 7:34 minuti, ripartiamo da qui, dalla lettura di giornali con la politica. Oggi, se vedete un po' i vari giornali, la politica si concentra su questo gruppo di parlamentari che il leader dei Repubblicani, il segretario dei Repubblicani, Francesco Nucara, che ieri era nostro ospite alle 8:30, ha detto no, non riusciremo a fare questa lista. Ieri ha visto Berlusconi e ha detto: eccola qui, siamo pronti, ci sono 20 parlamentari pronti a salvare il governo. Quei parlamentari che insomma fanno un po' squadra con se stessi, no? Sono gruppi di due o tre parlamentari che oggi il Corriere della Sera, pagina 10 e 11, mette addirittura tutti con i loro volti. Berlusconi ottimista, avanti per 3 anni, il via al gruppo dei 20 responsabili. È stata già chiamata la lista salva governo, in realtà non c'è nulla di ufficiale. Sono voci, ci sono, non so, i 3 di Noi Sud, ci sono Maurizio Grassano dei Liberal Democratici, Antonio Milo, Luciano Sardelli, Francesco Pionati dell'ADC, Daniela Melchiorre dei Liberal Democratici, poi c'è un gruppo dell'UDC, così definiti, i siciliani, Calogero Mannino, Giuseppe Drago, Michele Pisacane, Angelo Cera, Giuseppe Ruvolo, Saverio Romano, c'è qualcuno dell'MPA di Lombardo, c'è qualcuno del Südtirol Volkspartei come Siegfried Brugger e Karl Zeller. Sono identificati come i 20, ne ho citati alcuni, molti, che sarebbero pronti a sostenere il governo in Parlamento con i propri voti. Anche se questa trattativa che ha portato avanti in primo piano il segretario del PRI Nucara, che appunto era ieri nostro ospite, ha fatto arrabbiare chi? Il presidente del Partito Repubblicano, Giorgio La Malfa, che al Corriere della Sera Fabrizio Roncone dice: senta, abbia pazienza, io ho una dignità da difendere, una storia personale, un nome e un cognome, mi chiamo Giorgio La Malfa e francamente davvero non ho alcuna intenzione di arruolarmi tra gli ascari di Berlusconi. Si scandalizza così Giorgio La Malfa, che dice: Nucara tratta, ma cosa tratta? La nave Berlusconi affonda, Fini scende e noi trattiamo per salire? Insomma, tra l'altro Fabrizio Roncone fa notare come i repubblicani siano in 3 in Parlamento: La Malfa, Nucara appunto e Luciana Sbarbati. Sono in 3 e non vanno d'accordo. Nucara rilascia dichiarazione all'agenzia di stampa con tono soddisfatto: ci sono i numeri per il gruppo di solidarietà nazionale. La Malfa ascolta a bassa voce, un po' perfidamente confida: ce l'ho messo io lì. Lì dove, presidente? Alla segreteria del partito. Insomma, forse anche un po' amaro. Per cui c'è anche questa lite. Casini anche si adombra molto, secondo Repubblica, un virgolettato di Emanuele Lauria riferito ai parlamentari dell'UDC siciliani che starebbero abbandonando l'UDC, usiamo sempre i condizionali, per appoggiare Berlusconi: se ne vanno, mi libero di un peso. Questo sarebbe stato il commento molto molto duro di Casini riguardo a questi parlamentari. Per la verità c'è un po' di scetticismo anche da parte di Luca Zaia, che è il governatore del Veneto e che fa un'intervista a Repubblica a pagina 2-3 a Rodolfo Sala dicendo: Bossi è un po' freddo su questa stampella governativa, se Fini non vota a favore la maggioranza è finita. L'unico risultato che vogliamo, dice Zaia, è che si approvino in Parlamento i 5 punti con 316 voti dell'attuale maggioranza. Ripeto, sui 5 punti ci dovranno essere 316 voti. Se Fini non li vota, la maggioranza non c'è più. E se ci sono altri a fornire una stampella, si porrà un grande problema. Chi sono questi? Si chiede Zaia. Gente che magari viene dall'UDC, partito con il quale noi abbiamo vinto le elezioni e che ha osteggiato tutti i provvedimenti che ci stanno più a cuore, dal federalismo alle quote latte. Magari si ravvedono anche loro, chiede Rodolfo Sala. Certo, si può cercare il consenso in Parlamento, ma comunque sarà Bossi a decidere. Insomma, una Lega, anche ieri Matteo Salvini ai nostri microfoni con il suo non capisco è stato abbastanza serafico appunto a certificare un po' la confusione dell'attuale momento politico. Confusione che per la verità, se guardate a sinistra, non è che è minore, perché vabbè, oggi c'è la nuova sparata molto dura di Matteo Renzi, sindaco di Firenze, dirigente del Partito Democratico Giovane, colui che ha detto bisogna rottamare i vecchi dirigenti. Oggi fa un'altra intervista a Federico Geremicca, un'intera pagina 13 della Stampa, e ribadisce, va bene, intanto dice: ho usato il verbo rottamare, vi siete offeso qualcuno? Guardi che posso dirla in politichese, molti dei nostri dirigenti sono una risorsa, sono riserve della Repubblica, ma intanto lascino la prima linea. Ecco, vi piace così? La sostanza è la stessa. Certo che lo è, il problema è reale, intendo il ricambio dei nostri gruppi dirigenti. Un Matteo Renzi che insiste, altro che marcia indietro, marcia avanti, a partire dai gruppi parlamentari, fatte 3 legislature che sono tante, si va a casa. Noi del PD lo abbiamo scritto anche nello statuto e ho pronto un ordine del giorno per la prossima Assemblea Nazionale, così da capire se crediamo in quello che abbiamo scritto nello statuto del Partito Democratico. E poi dice: basta anche l'ossessione di Berlusconi, polemizzare per quello che fa. Bisogna attaccarlo su quello che non fa, dal milione di posti di lavoro mai visti, la riduzione delle aliquote fiscali mai realizzata. Bersani insiste su una grande campagna porta a porta in autunno. Può anche andare, ma dovremmo avere qualcosa da dire, perché non è che il porta a porta lo possiamo fare contro Minzolini. Alla gente di Minzolini non frega niente. Così Matteo Renzi, e tra l'altro che ci siano dei mal di pancia del Partito Democratico, ieri lo avevamo già certificato con il Corriere della Sera, Maria Teresa Meli aveva rivelato che Veltroni starebbe pensando a fare non solo una propria corrente, ma dei veri gruppi parlamentari autonomi, scindendosi dalla corrente bersaniana. Non gli piace più la linea di Bersani, questa possibile apertura a un nuovo Ulivo. Ebbene, oggi Repubblica affonda su questo. Veltroni, sfida aperta a Bersani. È pronto un documento che dovrebbe essere messo a punto, una sorta di manifesto che per la fine settimana è previsto come uscita. Questo dice Goffredo De Marchis su Repubblica, nella quale verrebbe certificato da parte di Veltroni intanto il bersaglio Bersani, ma anche il capogruppo Franceschini, un manifesto che contesterà punto per punto la linea del partito e dichiarerà esaurita l'esperienza di Area Democratica, la minoranza interna, dimostrando ormai che anche il capogruppo Franceschini si può considerare a tutti gli effetti un bersaniano doc. Un documento che, scrive Repubblica, segnerebbe una novità assoluta nel percorso politico di Veltroni, la nascita di una corrente e la sua guida. Tanto che qualcuno dice: Veltroni è pronto a ricandidarsi alle primarie per poi candidarsi a premier da parte del centrosinistra Partito Democratico, tanto che il Fatto Quotidiano con Luca Telese cita psichiatria democratica. Questo per dire qual è lo stato della situazione. Vabbè, invece non accosto al termine psichiatria, ma trovate tantissimi commenti su quello che ha detto il fumantino Giorgio Stracquadagno, onorevole del PDL, il fondatore del Predellino, che a Klaus Davi ha detto: il corpo serve, anche con il corpo si fa carriera, basta questo bigottismo, basta questa ipocrisia. È legittimo usarlo in politica, rispondendo dopo che Angela Napoli, vi ricordate, aveva detto: non escludo che ci sia qualcuno che si sia prostituito per andare in Parlamento. Stracquadagno: con il corpo si fa carriera. È esploso un caso, chi gli ha dato del pappone, chi gli ha dato del volgare, chi gli ha dato... Vabbè, Stracquadagno poi è tornato più avanti dicendo: volevo soltanto dire che in Parlamento, come in qualsiasi altro lavoro, l'aspetto fisico è importante. Insomma, detta così è un po' ridotta. Anche il giornale bufera su Stracquadagno: prostituzione e carriera. C'è da dire, a proposito del giornale, per il secondo giorno consecutivo c'è un Vittorio Feltri che è abbastanza critico sulle mosse politiche di Berlusconi. Il male minore, questo è il titolo editoriale di Vittorio Feltri, che già ieri aveva detto: non si capisce bene da che parte stiamo andando. Eccolo qui Vittorio Feltri: a quanto pare hanno trovato la soluzione, ovviamente la peggiore, ma anche l'unica possibile. Difatti, se uno è ferito, un uomo o un governo, lei stesso, cioè è lo stesso per chi non è avvezzo al milanese, o crepa o chiama il pronto soccorso, tertium non datur. Berlusconi ha scelto la seconda opzione, si è rivolto a un gruppo di deputati senza fissa dimora che si è precipitato sul luogo del sinistro. Tutto è sistemato, almeno sembra. Insomma, scrive Feltri, Berlusconi non se l'è sentita di rischiare le elezioni anticipate e se la terapia funzionerà lo vedremo presto. Il nuovo assetto quanto potrà durare, cioè questi 20 a sostegno di Berlusconi? Il cavaliere è sicuro di resistere in sella sino al 2013. Noi pensiamo invece che una maggioranza raffazzonata, per quanto ben guidata, non abbia un gran futuro. 6 mesi? Un anno? Sarebbe già un risultato eccellente. Comunque, buona fortuna. Questo Vittorio Feltri oggi sul giornale, Giornale e Libero, che reinsistono sul tema Monte Carlo, soprattutto il Giornale, eccolo qui: il notaio di Monte Carlo sente puzza di bruciato. Stefano Lorenzetto racconta di avere trascorso un paio d'ore con Paul-Louis Aurelliat, il suddito più blindato del Principato di Monaco. Scrive Lorenzetto: l'ho incontrato in una casa privata di fronte a 8 testimoni in una villa tra Romagnano e Azzago, frazione del comune di Grezzana in provincia di Verona, dove il professionista monegasco ha trascorso la notte con la moglie. Era stato invitato in una casa privata, per riservatezza non dovrei dare conto dell'incontro, ma per la carta dei doveri dei giornalisti il cronista ricerca e diffonde ogni notizia o informazione che ritenga di pubblico interesse. E allora eccomi qua a dire: questo incontro non è un'intervista, ma il dottor Aurelià sapeva del mio lavoro di giornalista. E che cosa dice Stefano Lorenzetto? Ecco come ha definito la vicenda di Monte Carlo. Si è lasciato sfuggire questa cosa sul fatto che Giancarlo Tugliani, cioè il cognato di Fini, fosse l'affittuario di quella casa. Ha detto: è stata fatta una stronzata. Questo il commento del notaio di Monte Carlo. E a proposito di Tugliani, Libero intitola: trovato Tugliani a casa. L'hanno scovato dopo il traffico. Trovato Tugliani a casa, questo è il titolo di apertura di Libero. Il cognato di Fini è il resoconto che Roberta Catania fa di un vero e proprio inseguimento con il motorino alle 15.22 di ieri. Noi di Libero siamo davanti allo studio del commercialista Luciano Fasoli. Ecco qui che arriva una macchina, guardia del corpo, scende l'uomo più ricercato del momento. Giancarlo Tugliani, elegantissimo, completo blu, scarpe artigianali, camicia bianca, cravatta scura, non sa di essere stato intercettato da un cronista, ma ecco qui che parte l'inseguimento. Le due ruote permettono di tenere il passo fin tanto che la Mercedes passa per Viale Angelico, svolta prima della circonvallazione trionfale, sale per Via Angelo Emo. Almeno 7 semafori rossi, utili a noi per avvicinarci e chiedere audizione, maledetti da Tugliani che non stacca l'orecchio destro dal cellulare e dall'autista che si sbraccia per far capire che l'incontro va chiuso lì. Tutto questo senza aprire neanche lo spiraglio di un finestrino. Poi continua, giunti a Piazza Irnerio, la macchina in bocca all'Aurelia, direzione quella del raccordo anulare. Nonostante la strada sia ad alto scorrimento, qualche guidatore imbranato ci aiuta a rallentare la Mercedes, che si sposta da una carreggiata all'altra in cerca di una via di fuga. Al bivio ne perdiamo le tracce con le possibili destinazioni, che diventano almeno tre: l'Eur, l'autostrada per Civitavecchia e l'aeroporto di Fiumicino. Dove sarà andato Giancarlo Tugliani? Libero è riuscito a inseguirlo poco, fino quasi a rischiare un incidente con Roberta Catania, ma alla fine Giancarlo Tugliani, l'uomo più ricercato del momento per Libero, è riuscito a far perdere le proprie tracce. Non è politica, ma certamente farà discutere l'articolo che appare oggi anche a pagina 21 della Stampa, a firma Riccardo Arena da Palermo, perché il titolo è abbastanza esplosivo. Ecco l'assegno di Berlusconi a Don Vito. Vale a dire un assegno che Berlusconi avrebbe staccato a Vito Ciancimino, ex sindaco di Palermo, morto nel 2002, poi condannato per mafia, e che risale agli anni 80. Sei anni dopo un colloquio in cui Massimo Ciancimino, il figlio di Don Vito, e la sorella Luciana ne parlavano al telefono, ecco spuntare l'assegno del presidente destinato a Vito Ciancimino. Il presidente, in realtà, all'epoca in cui firmò questo assegno, negli anni 80, non era ancora in politica, si tratta di Silvio Berlusconi, era il numero uno delle TV commerciali in Italia, ed ecco la fotocopia dell'assegno da 35 milioni di lire, risalente al periodo tra il 1979 e 1983, venuto fuori dal quanto mai capiente archivio di Don Vito Ciancimino. Un assegno sfuggito a perquisizione e sequestri, racconta Riccardo Arena, che ora è spuntato. Ne aveva parlato anche la vedova di Ciancimino, Epifania Silvia Scardino, che alla fine di luglio aveva consegnato ai PM Nino Di Matteo e Paolo Guido, assieme alle annotazioni del marito, questo assegno, e annotazioni che parlano anche di altri 25 milioni in contanti di identica provenienza. Silvio Berlusconi, che avrebbe finanziato, oltre che Vito Ciancimino, anche da Giuseppe Ciarrapico e Gaetano Caltagirone. Questo almeno racconta La Stampa con Riccardo Arena oggi a pagina 21. Ecco l'assegno di Berlusconi a Don Vito, era tra le carte di Ciancimino, emesso negli anni 80 come contributo elettorale. Voglio ricordare che oggi il Sole 24 Ore fa un interessante approfondimento di Basilea 3, vale a dire le nuove regole, i nuovi standard patrimoniali introdotti per quel che riguarda le banche. Basilea 3, che ha passato l'esame delle borse, c'è un Jean-Claude Trichet che a pagina 13 non è alcun freno alla crescita, sono un aiuto queste nuove regole, non sono un freno. Non bisogna avere timori sulle nuove regole di Basilea approvate, anche se in via tecnica, domenica. Ricordo che a novembre credo ci sarà a Seul l'Assemblea internazionale che dovrebbe ratificare il tutto. Jean-Claude Trichet, insomma, respinge la paura che possano fare arenare la crescita riducendo il credito. Questo racconta Riccardo Sorrentino, anche se il tema è proprio quello, il timore che le nuove regole creino un credit crunch, cioè una mancanza di credito disponibile per quel che riguarda le banche. Questo racconta a pagina 5 Nicoletta Picchio sul Sole 24 Ore. Vi ricordo un interessante focus su queste nuove regole e che cosa significa per le banche. A pagina 4 Alessandro Graziani e Moria Longo ne raccontano: big italiani già sopra i limiti, il fatto che tutti gli istituti di credito temevano queste nuove regole, tutti le aspettavano con ansia, ma alla fine sia tempi che numeri usciti dall'accordo di Basilea appaiono meno severi del previsto. E diciamo che tutti i grandi istituti bancari italiani, per il Sole 24 Ore, hanno già centrato in gran parte gli obiettivi stabiliti da Basilea 3. Solo Banco Popolare e Monte Paschi Siena, racconta il Sole, devono ancora centrare gli obiettivi. A pagina 4 ci sono tutti gli elementi sull'impatto degli istituti. Mi devo fermare qui, siete pronti? Iniziano i talk show, ritornano i talk show, da stasera credo che ci sia Ballarò con Floris, e trovate sulla Stampa la nuova regola. Il direttore generale della RAI, Masi, ha mandato una lettera ai conduttori a dire: sono stanco di vedere il pubblico che partecipa con applausi. Ecco il pubblico col silenziatore. Il direttore generale dice: il pubblico non deve partecipare con applausi ai talk show. Dovrà essere imparziale, selezionato, ben istruito su come comportarsi durante il programma, altrimenti rischia di trascinare il consenso, strappare il primo piano, entrare nelle case degli italiani, contagiare il pubblico e formare opinioni. Cari spettatori, andate a vedere i talk show in silenzio, come delle marionette, come dei burattini. Non potete applaudire, se no orientate il consenso. Ora è il momento del GR.